confonderanno le stagioni. Guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi. Stiamo insieme, offrimi da bere. Pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni. Pensa quante volte sembra proprio che non va, e poi cambia tutto in poche ore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Quando sarai lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie il ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo. Tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente. Siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Le promesse che hai dimenticato poi, te lo dico, non ti preoccupare. In questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare. Dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare. Mettici una goccia delle lacrime che noi mescolammo in fondo al nostro amore. E non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare. Non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà. Una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che mi emoziona. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita.